Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle.